715. Gelatina di fragole in gelo. Fragole molto rosse, ben mature, grammi 300. Zucchero, grammi 200. Colla di pesce, grammi 20. Acqua, decilitri 3. Rum, 3 cucchiaiate. L'agro di un limone. Strizzate le fragole in un pannolino per estrarne tutto il sugo. Fate bollire lo zucchero per 10 minuti in 2 decilitri della detta acqua e questo siroppo unitelo al sugo delle fragole. Aggiungete il limone e tornate a passare il tutto da un pannolino fitto. Alla colla di pesce, dopo averla tenuta in molle come quella del numero precedente, fate spiccare il bollore nel rimanente decilitro d'acqua e versatela così bollente nel predetto miscuglio. Aggiungete per ultimo il rum, mescolate e versate il composto nello stampo per metterlo in gelo. Questa gelatina sarà molto gradita dalle signore.